La principessa con 20 gonne. Questa è la storia della terra olandese e di coloro che si chiamano olandesi. In Olanda, molti secoli fa, vivevano un re e una regina che avevano una bellissima figlia. La principessa era adorabile da vedere e lei lo sapeva bene. Tra tutte le persone della terra che amavano guardare il suo bel viso, lei adorava guardarlo ancora di più. A quei tempi non c'erano specchi o metalli, quindi la principessa andava nel bosco, al lago, e ammirava il suo meraviglioso riflesso nell'acqua. Il suo amore per la natura e per i boschi era così grande che giocava nel fango tutto il giorno, correva con gli animali ogni mattina e ogni sera. Così, quando tornava a palazzo, i suoi capelli erano aggrovigliati come quelli di un nido di uccelli. Oh, mia cara principessa, come posso sbarazzarmi di quei grovigli nei tuoi capelli? Non lo so, questo è il tuo lavoro! Per favore, vieni a sederti e lasciati pettinare. Forse ti farà male. Non sai fare niente di buono! Sei un bufalo! Un bufalo? Vostra maestà mi ha detto che sono simile ad un bufalo? Questo è così scortese! Impara a pettinarmi bene e poi parleremo di maleducazione, bufalo! Quest'acqua è così calda! Nessuno sa fare proprio nulla qua! Come avrete notato, il comportamento della principessa non era proprio adorabile come il suo viso. Giocare con le creature della foresta e spettinarsi i capelli andava bene. Ma insultare i suoi aiutanti, molti dei quali molto più grandi di lei, anche quando cercavano di fare del loro meglio per lei, semplicemente non andava bene. La regina parlò della petulanza della principessa al re. Il re amava la figlia e non sopportava di pensare di punirla. Assicurò la regina: bene, nostra figlia non è completamente cattiva, mia cara. Condivide il mio amore per gli animali, gli alberi e le cose della foresta. Vedi quanto teneramente si prende cura del vitellino che ha trovato ferito nella foresta una volta? E gli uccelli sono sempre con lei ogni volta che è fuori in giardino. Mentre il re si confortava pensando alla gentilezza della principessa verso gli animali, era preoccupato per il tipo di regina che sarebbe divenuta. Quindi prese le preoccupazioni nel suo cuore e le portò nel suo posto preferito nella foresta. Il punto in cui un tempo si trovava il suo amico, la grande quercia. Erano passati molti anni da quando il re era solo un ragazzo di 10 anni. Aveva visto alcuni taglialegna venire per tagliare la quercia. Non vi lascerò tagliare quest'albero. Principe, ci serve la legna. Andate a cercare un albero morto, ma non vi lascerò uccidere questo. Oppure passa la tua ascia sul mio corpo prima che la lama tocchi l'albero. Quindi i taglialegna non ebbero altra scelta che lasciare in pace la vecchia grande quercia. Il principe fece sì che una guardia reale fosse messa nella foresta in modo che la legna venisse tagliata dagli alberi già morti, non da quelli sani. A nessuno era permesso cacciare animali o catturare uccelli dalla foresta. Un altro giorno, quando il giovane principe stava giocando nella foresta... Da dove viene questo suono? Sembra che un animale stia soffrendo. Il giovane principe cercò ovunque, fra i cespugli, fra gli alberi, e trovò un cucciolo di bufalo. Il bufalo stava soffrendo terribilmente perché la sua gamba era stata ferita e la ferita era profonda. Il re portò il bufalo a palazzo e si occupò di esso giorno e notte, finché alla fine non fu abbastanza sano da correre di nuovo nel bosco. Quando il giovane principe era diventato più grande, ormai un giovane di 20 anni, aveva visitato di nuovo il suo vecchio amico, la quercia, per scoprire che il povero albero stava morendo. La mia quercia, mia amata quercia, cosa ti è successo? Perché sembri così malato, amico mio? Devo andare da un dottore, un giardiniere, chiunque possa sapere come salvarti. Non servirà a niente, giovane principe, perché è giunto il momento per il mio spirito di lasciare questo mondo. Sei stato gentile con me e mi hai salvato la vita in diverse occasioni. Ora è tempo per me di restituire il favore. Ed anche per me. Tu, mio caro bufalo, anche tu sembri così stanco e sfinito. Io e la quercia siamo fratelli. Eravamo stati maledetti a vivere come un albero e come un animale. E ora la durata della maledizione si avvicina alla fine. È tempo per noi di tornare nella nostra terra tra le stelle. Ma prima di andare, o nobile principe, desideriamo benedire la tua terra con prosperità e felicità indicibili, poiché la tua gentilezza lo merita sicuramente. Quando sarò morto, prendi una delle mie corna e crea da essa un pettine per la figlia che un giorno avrai. E quando io sarò caduto, taglia la corteccia in assi. Quando tua figlia compirà 17 anni, unisci le assi così da creare una gonna per lei e fagliela indossare ogni volta che si comporterà male. Poi, un giorno, lei troverà un fiore viola nel punto esatto in cui mio fratello ora si trova. Lascia che le donne della terra tessano dallo stelo del fiore. E prima che tu lo sappia, questa foresta oscura diventerà un campo vibrante pieno di tali fiori che il tuo popolo trasformerà nel tessuto più fine e morbido mai scoperto dall'uomo. E il tuo regno diventerà uno dei più prosperosi del mondo. Oggi, tanti anni dopo, mentre il re si trovava nel bosco, si ricordò di ciò che i suoi vecchi amici, la quercia e il bufalo, avevano detto. Il suo cuore preoccupato vide un raggio di speranza e, ringraziandoli nella sua mente, il re si precipitò a palazzo. Fece fare una gonna fatta di assi di quercia e un pettine dal corno del bufalo. Nostra figlia ha di nuovo fatto piangere la governante con la sua maleducazione. Falla venire qui. Fu chiamata la principessa. Quando arrivò? Ho sentito che ti sei comportata di nuovo male. Padre, sono tutti così inutili. Basta! D'ora in poi pettinerai i tuoi capelli con questo. E d'ora in poi, ogni volta che sarai scortese, indosserai questa. Padre, ma io? Niente domande, niente discussioni. Indossala ora. E così andarono le cose. Ogni volta che la principessa era scortese o si comportava male, indossava la gonna di legno. Alla principessa non piaceva affatto e il suo comportamento presto iniziò a migliorare. Ogni volta che la principessa si pettinava con il pettine ricavato dal corno di bufalo, le maniere della principessa miglioravano notevolmente. Adoro la sensazione che mi dà questo pettine! È così morbido! Ma i tuoi capelli sono così aggrovigliati, vostra maestà. Potrebbe far male. Sì, potrebbe. Non ti preoccupare, cara. Sarò molto calma. Stai bene? Oh, mi dispiace. Mi dispiace molto, maestà. Se stai bene, va tutto bene. Non ti preoccupare. Chiunque può scivolare così. Tutti erano stupiti dal meraviglioso cambiamento che era avvenuto nella principessa. Una volta arrogante, maleducata ed egoista, presto le sue maniere divennero belle come il suo viso. Non aveva più bisogno di indossare la gonna di legno ed era la persona più gentile e più dolce del regno. Un giorno, mentre andava nel bosco come al solito, raggiunse il punto in cui una volta vi era stata la vecchia quercia e vide il fiore più bello che ci fosse mai stato. Portò il fiore a palazzo e lo mostrò a sua madre e a sua zia, che era lì per visitarla. Madre! Zia! Guardate cosa ho trovato oggi nella foresta! Che strano, bellissimo fiore! Questo non è un fiore normale, cara! Questo è lino! Lino? Che cos'è? Presto la zia mostrò alle donne nel palazzo come arrostire il gambo ed estrarre il lino dal fiore e trasformarlo in un morbido, bellissimo lino. In poco tempo, l'intera foresta era diventata un enorme campo di fiori di lino e tutti nel regno filavano il morbido tessuto. I sarti realizzavano meravigliose camicie per gli uomini e gonne per le donne. La principessa adorava così tanto quel lino che un giorno... La gonna è così morbida! Portatemene un'altra! Guarda che stile che mi dà! Portatemene un'altra! Ah, più ne indosso, più belle diventano! Prendetemene ancora una! La principessa indossò in tutto 20 gonne e camminò con una tale eleganza nel palazzo che tutte le donne pensarono che 20 gonne fossero il numero da indossare. La moda si diffuse in tutto il regno e ogni ragazza, ogni donna e ogni sposa doveva avere 20 gonne addosso. E fino ad oggi la moda che la principessa aveva iniziato rimane nella terra olandese tra gli olandesi. La moda che fu portata dalla principessa che indossava 20 gonne. Ancora più importante, dobbiamo ricordare che questa era la stessa principessa che aveva dovuto indossare una gonna di legno. E ora poteva indossare un morbido lino che la faceva sentire a suo agio anche quando si metteva 20 gonne. Quando siamo disposti ad accettare i nostri difetti e a lavorare su di essi, diventiamo spensierati e gioiosi. Quindi le persone si sentono a proprio agio con noi e celebrano qualunque cosa facciamo. Una volta che la principessa è diventata educata e amorevole, nessuno ha più parlato della sua maleducazione, perché quando noi stessi rinunciamo alle nostre cattive abitudini, gli altri naturalmente ci perdonano. È così che funzionano le cose nel